si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. La puntata di sabato si può fare, cronache da un paese migliore. Seguiteci, vi portiamo per altre strade rispetto a quella che è la cronaca della settimana, l'economia, la politica. Poi adesso con questa situazione post-elettorale del tutto confusa c'è anche un po' di interesse, questo sì. Però insomma noi invece facciamo dei percorsi così a zigo zago. Prima di tutto oggi però succederanno delle cose. Sveleremo la storia vincitrice della prima categoria del concorso che abbiamo fatto per celebrare il primo anno di Si può fare, la categoria imprese, e vi diremo appunto chi ha vinto, chi è stato più votato da voi ascoltatori sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Alle 12.30 avremo ospite la persona che rappresenta questa idea imprenditoriale che è stata la più gradita da voi. Invece voi ascoltatori che avete votato potete oggi, inviando al 349-238-6666 un sms con la mail con la quale vi siete registrati durante la votazione, potete vincere i più veloci il soggiorno sostenibile offerto da EcoTube. Poi inviteremo anche l'amico Alberto di EcoTube per spiegarci di cosa si tratta. Facciamo sentire l'applauso, Pietro Lacorte in regia, l'abbiamo poi più avanti in scaletta, l'applauso che è il segnale convenzionale alle 12.30 circa al quale voi dovrete inviare l'SMS. Ve lo facciamo sentire, ma non è questo il momento di inviare l'SMS. Sentiamo? Ecco, quando sentirete più avanti alle 12.30-35 circa questo applauso, ecco, allora dovete inviare l'SMS con la mail con la quale vi siete registrati sul sito. Consiglio, fate l'SMS adesso con la mail e poi al momento in cui sentite l'applauso, tac, lo inviate e così i più veloci vincono la vacanza di EcoTube. Detto questo, cominciamo a parlare della puntata di oggi. Vi vogliamo all'800 24 00 24 in diretta per commentare la più grande moschea della Liguria, inaugurata qualche giorno fa dal Benga, da un sindaco leghista. Evidentemente si può fare anche questo. E poi Genova contro le slot machine, contro le slot house soprattutto. Ci sono delle cose interessanti che sta facendo il comune contro questa che definisce una piaga sociale. Vi chiediamo la vostra vittoria massima a una slot machine, la vostra anche perdita massima, per capire un po' di cosa stiamo parlando. 800 24 00 24. Adesso cominciamo con qualche notizia della settimana. Così, giusto per entrare nel clima, due notizie veloci perché abbiamo molta carne al fuoco. Oggi in Emilia Romagna da mercoledì a Imola parte la sperimentazione ricette elettroniche per le vostre medicine. In farmacia non serve più la ricetta di carta, ci sarà un codice, una cosa tutta tecnologica nuova che fa parte del progetto Sole, sanità online. Insomma, anche qui sanità efficiente, intelligente in Emilia Romagna si può fare. A Firenze una idea del sindaco Renzi. Nell'area di Castello basta col cemento. C'è un vecchio piano urbanistico del sindaco Dominici che prevede abitazioni, case, cemento, e sappiamo che questa è una cosa che non serve più a niente perché ce ne sono anche troppe di case. Allora Renzi ha detto, vedremo poi se lo farà, facciamo qualcos'altro, un parco multifunzionale. È una bella notizia. C'è anche un appello Italia Fragile online di molte associazioni ai neoeletti nel nuovo Parlamento, che dice così: mai più come a Mirandola, mai più come a Giampilieri, mai più come a Sarno, mai più come all'Aquila, basta alla cementificazione. Va bene, questo è un appello, potete andare online e aderire. Adesso andiamo ad iniziare tra poco con Genova. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. E non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi, se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco, vendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei. Tutto nasce a Genova con la mancata autorizzazione all'inaugurazione di una nuova sala giochi, una slot house, credo che si chiamino così, a Pegli. Poi il comune di Genova, vista un po' anche la mobilitazione di persone su questa questione qua, ha detto faremo dei controlli per mancato rispetto, diciamo, delle regole anche su altre slot house. Ne è venuta fuori una lista di sale giochi che sono nel mirino del comune, e c'è anche, salutiamo, l'assessore alla legalità del comune di Genova, Elena Fiorini, buongiorno. buongiorno a voi. C'è anche un tavolo, e questa è la prima cosa che le chiedo, mi conferma, un tavolo permanente in comune per analizzare questo fenomeno che lei personalmente ha definito anche una piaga sociale. Beh sì, e perché lo è effettivamente, perché se noi pensiamo come un tempo i casinò fossero limitati e lontani dalla vita quotidiana, e adesso attualmente abbiamo invece all'interno della nostra, del nostro territorio, in mezzo alle abitazioni dei cittadini, sostanzialmente dei casinò permanenti che causano poi quei fenomeni che sono sempre stati presenti nell'ambito delle sale da gioco e che ovviamente in un periodo di depressione economica si amplificano ancora di più, perché le persone sognano di mettersi a posto, di poter vincere qualcosa a fronte di tutte le difficoltà di vita quotidiana che hanno. È vero che c'è una proliferazione, si vede in qualunque città, io vivo a Milano, però ogni tanto vado anche altrove, e passi in una strada e dici, ma qua prima c'era, non mi ricordo, adesso c'è una slot house, sale giochi da tutte le parti, è una cosa incredibile. Ed è vero quello che diceva l'assessore Fiorini, cioè che un tempo si andava al casino in un luogo anche deputato a tutto questo, invece adesso questa facilitazione, questo trovarseli sotto il naso, oltre che in tutti i bar con le slot machine, sicuramente sta incrementando questo fenomeno. Adesso le voglio chiedere, dopo il traffico, assessore, se avete dei numeri, no? Anche su quanta gente gioca, quanta gente si rovina, quanti sono le persone affette da ludopatia, perché sta diventando veramente un fenomeno sociale. E agli ascoltatori all'800 24 00 24 vogliamo chiedere la loro vincita massima a una slot machine e anche la perdita massima, se qualcuno ce lo vuole raccontare, perché così capiamo anche di che cosa stiamo parlando. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, come dicevamo, di nuovo in diretta con l'assessore Elena Fiorini alla legalità del Comune di Genova. Avete appunto, state monitorando questo fenomeno. A parte, poi le voglio chiedere anche quante sono le sale che sono nel mirino adesso del Comune, ma i numeri sul fenomeno, per esempio a Genova o più in generale, assessore? Beh, guardi, dal punto di vista delle sale noi ne abbiamo 63 sul territorio genovese, e tra l'altro abbiamo dei municipi, cioè le nostre divisioni territoriali, che ne hanno un numero elevatissimo, cioè San Pier d'Arena, Cornigliano ne ha 16. Quindi lei può pensare all'invasività di questo tipo di locale, e questo non basta, nel senso che poi abbiamo tutte le macchinette, come si dice, che sono insediate nei bar, nei tabacchini, oltre a tutto il gioco in rete che si può svolgere. E quindi un'offerta incredibile, una sollecitazione molto forte di fronte alla quale i cittadini sono veramente senza rete, e quindi è veramente difficile anche monitorare dal punto di vista, diciamo, collettivo, quante persone sono coinvolte in questo fenomeno, perché ormai è assolutamente 360 gradi. Ecco, ma quali, non monitorabile. Quali sono le cose che state mettendo in campo voi, e quante sono le sale giochi che rischiano, che avete in qualche modo, a parte il caso di Pegli, che è quello che forse ha aperto un po' questa questione? Quella sala giochi lì, tra l'altro, poi è stata inaugurata o no? No, non è stata inaugurata, ho notizia che sia stato presentato ricorso, e poi procederemo al Tribunale Amministrativo Regionale a dispiegare quelle che sono le ragioni del Comune e che hanno condotto a emettere un provvedimento di storia. Ecco. Ma le iniziative sono diverse. Io credo che però vada detto per chiarezza che quello che realmente può essere fatto per non lasciare i comuni a svuotare il mare col secchiello, o comunque, diciamo, a dover creare delle forme anche in qualche modo un po' artigianali, no, per riuscire a contrastare questo fenomeno, la riforma di una legge nazionale. E io credo che noi ci dobbiamo fare proprio portatori davanti all'ANCI, insieme all'ANCI, di una riforma di questa legge che consente questa proliferazione. Dopodiché le iniziative che noi abbiamo sono queste. Anzitutto abbiamo creato un gruppo di lavoro in sinergia con la questura, sì. Perché essendo queste sale soggette a un'autorizzazione questorile, che ha, diciamo, tutti i presupposti e i tempi di un'autorizzazione di pubblica sicurezza ed è svincolata da qualunque parere del comune, noi non eravamo neanche a conoscenza di quando stava per aprire una sala. E questo ovviamente era già il primo problema e devo dire che da parte della questura c'è stata una grandissima disponibilità e quindi al nostro sportello delle attività produttive arriva la segnalazione che è stata richiesta l'autorizzazione questorile e quindi da lì ci attiviamo anche come comune per procedere in via preventiva una serie di controlli. Abbiamo poi una consulta permanente sul gioco. Sì, perché sì, mi scusi un attimo, però su questo punto i controlli, perché i criteri sono il rispetto di una serie di norme, tra cui per esempio la distanza, sappiamo, no, dai luoghi sensibili, 300 metri mi pare? 300 metri, no, io non vorrei essere troppo tecnica. Sì. Però, no, no, ma per ricordarlo agli ascoltatori, per dire che cosa... Ecco. Praticamente queste sale, per farla molto semplice, sì? Devono avere una concessione da parte del Ministero delle Finanze, devono avere un'autorizzazione questorile che è rilasciata sulla sola base, diciamo, della specchiata condotta del conduttore e del titolare, certo. Del titolare e poi di una certa ampiezza e di una sorvegliabilità. Insomma, questi sono i criteri quindi, che il comune ha in mano per poter dire la sua, perché per il resto lei ci ricordava. Questo per quanto riguarda l'autorizzazione pubblica. Certo. Dopodiché, per quanto riguarda la Liguria, c'è una legge regionale, che è la legge regionale 17 del 2012, che appunto inserisce un'autorizzazione, diciamo, visto che i poteri del comune sono quelli limitati, diciamo, al controllo del territorio e alla tutela delle fasce deboli. Questa legge regionale appunto ha inserito un'autorizzazione anche sindacale che autorizzi soltanto le sale che sono a più di 300 metri di distanza da luoghi sensibili. Perché questo è quello che avevamo letto appunto sui giornali. Quindi naturalmente sono i pochi strumenti che il comune ha in mano per poter dire sì e no. Poi lei invocava giustamente una questione più nazionale di una legge, perché non è che il comune può fare o non fare se non c'è una legge. Quante sono al momento, secondo lei, le sale giochi che rischiano, visti questi criteri e quello che voi state facendo, così per andare un po' sulla spicce? Anzitutto quelle di nuova apertura, sì. E poi alcune sale, perché la legge regionale, diciamo, ha vigenza solo per tutte le richieste di autorizzazione intervenute successivamente. Alla legge, certo. Ci può fare un numero approssimativo? In questo momento direi che stiamo procedendo a un controllo a tappeto su tutte le sale che hanno aperto dopo la legge regionale e quindi direi che tra le più interessate ce ne sono direi quattro. Quattro sale? Quattro, però complessivamente anche con le notizie riportate di richiesta di autorizzazione all'apertura che magari non è stata ancora formalizzata, direi una decina. Benissimo, e quindi insomma c'è un numero di sale che rischiano da questo punto di vista. Senta, le volevo fare anche un'altra domanda, poi naturalmente vedremo che evoluzione avrà anche la vostra iniziativa. Poi all'800240024 che accoglienza gli ascoltatori danno a questo. All'inaugurazione della sala giochi Pegli ci doveva essere Nicole Minetti, tra l'altro mi domando perché in qualità di cosa, non lo so, ex consigliera regionale della Lombardia, forse volto dello Star System, non lo so, per tirar dentro gente sicuramente. Poi naturalmente è saltata. C'è anche una rappresentazione plastica, voi siete un comune di centrosinistra, dove un centrosinistra in Italia si occupa anche di queste questioni e le vuole limitare, e un centrodestra che invece se ne frega, per cui vanno bene le slot, va bene tutto e si festeggia con Nicole Minetti. Ma guardi, io penso che questa sia una questione abbastanza trasversale, anche quando l'abbiamo affrontata in consiglio comunale devo dire che in tutta sincerità la preoccupazione per i cittadini è stata assolutamente trasversale, anche per quanto riguarda le norme sulle sale giochi e le enorme possibilità di estensione di rilascio di autorizzazioni ministeriali, devo dire non ha avuto una matrice politica precisa. Il problema è che lo Stato lucra su queste attività e quindi da questo punto di vista occorre capire se come cittadini, se come politici le esigenze di cassa devono prevalere su quelle di esigenze sulle esigenze di tutela della salute pubblica. E questo lo sappiamo perché il fenomeno è anche nazionale, riguarda tutti i giochi, tutte le lotterie dove naturalmente con la questione fiscale lo Stato incassa. Non so se c'è qualcosa da aggiungere, assessore Fiorini, però io direi che insomma, la cosa è in itinere, no? Cioè voi state facendo questi controlli, ci sono una decina di sale che rischiano e vedremo. Ecco, no, quello che posso aggiungere sì. È che io credo che comunque come comuni, cioè voi avete una trasmissione che si chiama Si può fare e noi dobbiamo dire si può fare, diciamolo. Nel senso che le cose che si possono fare in realtà sono introdurre delle limitazioni nell'ambito del PUC, che è una cosa che noi abbiamo già fatto, quindi avere delle zone in cui le sale non si possono impiegare, possiamo poi avere delle norme di tutela delle fasce e avere anche dei regolamenti comunali, e noi lo stiamo preparando, un regolamento comunale, perché eventualmente, questa è una valutazione che noi abbiamo fatto, si possono ampliare le distanze, quindi non 300 ma 500 metri rispetto a quello stabilito dalla legge regionale, e anche ci aveva provato il governo Monti, però poi è andata come è andata. Ci fermiamo qua per il momento. Grazie all'assessore Elena Fiorini, all'assessore alla legalità del Comune di Genova, anche per aver citato il titolo del programma nella sua iniziativa. Si può fare, va bene. Adesso andiamo, tra poco restiamo in Liguria perché parliamo della nuova grande moschea inaugurata ad Albenga. Un posto per loro l'hanno trovato sicuramente i musulmani e le persone di religione islamica in Liguria, ad Albenga, dove è stata inaugurata qualche giorno fa una grande moschea, chiudendo una questione che riguardava il centro della città, dove in uno spazio troppo stretto si trovavano, come sanno quasi tutti i cittadini italiani che ci sono trovati di fronte, a pregare anche per strada, perché lo spazio era stretto e i musulmani devono pregare in quella maniera lì. Allora, ad Albenga è stata inaugurata la moschea dal sindaco leghista. Buongiorno a Rosy Guarnieri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora io, colpiti da questa notizia, abbiamo detto, allora è proprio vero che si può fare anche questo, sindaco? C'è un leghista che inaugura la moschea e sappiamo tutto quello che c'è stato in passato di discussioni sulla presenza dei musulmani, eccetera, anche nel suo partito. Sì, si può fare, a volte è chiesto, anzi è opportuno fare scelte o condividere scelte non proprio confacenti al nostro volere, ma che sono opportune, soprattutto rispettose dei diritti che una comunità vanta. Nel caso Albenga non si è inaugurata una moschea, ma si è trasferito quello, il centro islamico che sì. Già esisteva nel centro. So che storico. Lei non vuol parlare di moschea, ma di centro, com'è perché che lo ha chiamato? Le moschee sono tutt'altra cosa. Sì, non c'è questo, il minareto lì, per esempio. Vede, cioè, io le voglio fare un esempio. Sì. Quando molti anni fa ero ancora in Sicilia, Villalba, era uso che alla sera le donne si riunivano in una o in un'altra casa a dire il rosario. Non per questo quelle case diventavano due chiese. Ecco, quindi nel caso Albenga già esisteva una sede del centro culturale islamico che, come ha già detto lei, era di 40 metri quadrati, quindi non sufficiente ad ospitare tutti gli associati di questa associazione, e quindi si radunavano pregando anche sul suolo pubblico, hanno grossi disagi. Oggi hanno acquistato, quindi con oneri a carico totale dalla comunità islamica, un capannone di 750 metri quadrati all'interno del quale potranno svolgere tutte le loro attività di confronto culturale e anche probabilmente religiose. Ecco, lei non vuole parlare di moschea, però poi i giornali insomma titolano. È vero che comunque è il più grande centro per la preghiera islamica in Liguria, come dimensioni e possibilità di... Proprio oggi sui giornali quotidiani dicono che Savona, anzi l'ARC, metterà, l'agenzia regionale, sì, metterà a disposizione della comunità islamica un locale molto più ampio. Così lei può uscire dai titoli, no, dei giornali. No, io non voglio uscire da nulla, perché io mi assumo le responsabilità. No, però in apertura ha detto che a volte ci si è costretti a fare delle cose nelle quali, ora io traduco, magari non si crede fino in fondo, comunque si deve dare risposta ai bisogni dei cittadini, anche se lei dice forse per me non era questa una delle priorità, non so come dire, insomma, della sua amministrazione, no? Senza dubbio. Senza dubbio un buon amministratore deve sapere essere amministratore Ma di tutti. Da 0 a 100, il suo grado di convincimento su questa cosa supera almeno i 50 punti? Certo che lo supera per opportunità di ordine e sicurezza pubblica. Per quella questione che abbiamo detto, che in città non potevano più stare. Non potevano più stare. Ecco, ma a questo punto, no? Perché io ho letto sui giornali che insomma è stata un po' criticata dalla base della Lega, che, come ripetevo, insomma, in passato è stata definita anche un partito razzista, no? Ricordiamo per esempio quella cosa che fece Borghezio, se la ricorda quella cosa di Borghezio? Certo, io ricordo tutto e io ho aderito alla Lega non perché non riconoscendo nella Lega il razzismo, è che assolutissimamente la Lega non ha mai professato razzismo. Poi ovviamente ci sono delle persone che esagerano, perlomeno esprimono il proprio pensiero personale esagerando. Però Borghezio, allora glielo faccio risentire così, perché poi sennò magari abbiamo la memoria corta, ma non c'è una cosa polemica, è così, anche per risentire questa cosa che lui fece in un servizio delle Iene di un paio di anni fa, forse di più, anzi sono 4 anni fa, perché era il 2009, sentiamo Borghezio nelle Iene. Noi lombardi, noi piemontesi! Mario Borghezio, avvocato, già deputato della Lega Nord, attualmente parlamentare europeo, è presidente del governo della Padania e dei Volontari Verdi, che operano contro la criminalità e l'immigrazione clandestina. Dopo aver propugnato l'istituzione di una chiesa del nord separata da Roma, Borghezio 2 anni fa ha condotto una operazione di disinfestazione razziale. Noi possiamo fare un po' di pulizia, mi piace alzarci un secondo. È salito sull'Intercity Milano-Torino e ha spruzzato disinfettante sugli immigrati che incontrava. Ieri eravamo sui treni a fare un po' di pulizia, proprio col disinfettante. Quelle... presenza morbante. Insomma, sono alcuni anni fa, però questo accadeva. Parlamentare europeo Borghezio, presidente, adesso io non so, del governo della Padania, quindi aveva anche qualche ruolo, e questo esprimeva un po', c'erano degli applausi al comizio, lo vedevano tutti, un po' anche una linea della Lega. Oggi però, nonostante alcuni distinguo che lei faceva, anche se siamo lontani anni luce, no, i due scenari, però è un partito un po' diverso, no, la Lega, dopo che c'è Maroni, dopo che insomma si è un po' voltato pagina rispetto a un certo passato della Lega, o no? Ma io direi che intanto Borghezio non fa tutta la Lega, questi suoi comportamenti non sono mai stati condivisi da me, al punto che non ho mai permesso un suo comizio ad Albenga. Quindi perché gli aveva chiesto di farlo? Certo, io ho aderito alla Lega per seguire le linee di tracciate da Bossi, che oggi mantengo nel mio cuore e nella mia formazione. È giunta ora di fare una politica diversa, quindi è bene che si segua con quanto già programmato da Maroni, e ho apprezzato moltissimo oggi leggere che Maroni, quale governatore, e quindi questo mi dimostra che sono perfettamente in linea, in quanto governatore della Lombardia si metterà rappresentante della lista civica connessa alla lista Lega, alla coalizione, all'interno della coalizione, perché lui vuole essere il governatore di tutta la coalizione e di tutti i lombardi. Quindi mi ritorno al mio intervento iniziale, quello che molte volte le scelte non sono proprio quelle dettate dal cuore, ma un amministratore deve farle. E va bene, comunque io la ringrazio, Rosy Guarnieri, sindaco di Albenga, per essere stata con noi, insomma, aver accettato un po' anche lo scherzo in qualche modo, non la provocazione, un sindaco leghista che inaugura la più grande moschea centro per le preghiere, se no sarà. E devo dire che avevo messo in Liguria. Conto più critiche. Vabbè, sono stato leggero, dai. Non da parte sua, da parte dei leghisti. Dei leghisti. Vabbè, però adesso vediamo, perché ho letto qualche retroscena che, insomma, in giunta comunale qualche no, scricchiolina. Assolutissimamente no. Va bene, buon lavoro. Grazie, sindaco, grazie per essere stata con noi. Si può fare cronache da un paese migliore. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Avevamo detto di inviare l'SMS al segnale convenzionale alle 12.30-12.35. Siamo in ritardo di qualche minuto. Cominciate a caricare il vostro SMS al 349-238-6666 con la mail con la quale vi siete registrati sul sito al momento del voto nel concorso che si può fare. Basta mettere proprio la mail nel testo dell'SMS e al momento del segnale convenzionale, che è l'applauso, ve lo ricordo, inviate, più veloci vinceranno il premio. Oggi un premio per la prima categoria del concorso Le Imprese, per le prossime 3 settimane, compresa quella di oggi, 4 ogni settimana, ogni sabato, una premiazione e una possibilità di vittoria del soggiorno sostenibile offerto da EcoTube. Allora caricate l'SMS che tra poco si parte. Prima però sentiamo un paio di ascoltatori dell'800 24 0024. Michele da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono Michele da Cuneo, ho telefonato per le slot house a Genova. Sì. Volevo raccontare la mia piccola esperienza personale di mio padre, che dopo la pensione in 10 anni aveva pidato 700.000 euro. Quanto? In slot machine, proprio quelle. Quanto, mi scusi, abbiamo capito bene, 700.000? 700.000 euro in 10 anni. Diavolo, e come ha fatto? Non è finita, perché ha fatto, mia madre non se ne è accorta, ha tenuto nascosti i conti bancari e tutto. Adesso, a distanza di più di 10 anni, perché adesso siamo a 13, mio padre si trova con un debito di 30.000 euro in banca, con già il strafido e quindi con degli interessi pazzeschi, e a doversi vendere la casa, e si sono venduto l'oro di famiglia e tutto, e praticamente una follia questa vostra. Insomma, lei è sicuro di queste cifre che ha detto? Assolutamente, tutto è certificato. Ma suo padre è in banca. Sì, ha poi seguito un percorso, una cura, cioè è stato diagnosticato una ludopatia. Che cosa fa? Come sta adesso? Le dico, alla veneranda età di 75 anni, io tra l'altro lavoro nel settore degli abiti psicologici e psichiatrici, ma tutti i professionisti mi hanno detto che oramai è troppo tardi per iniziare una psicoterapia contro il gioco. Comunque, suo padre è una di quelle persone che non dovrebbe mai entrare in una slot house, quindi ci dovrebbe essere qualcosa che cambia rispetto ad adesso, perché adesso chiunque può entrare e gioca, loro non gliene frega nulla, si beccano i soldi, però capite bene che una situazione del genere non è possibile. Grazie Michele da Cuneo per questa testimonianza. Andrea da Roma, altro intervento, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimamente, mi sembra un po', scusatemi, ma la saga dell'ipocrisia, cioè una volta c'erano i cavalli, si giocava nelle sale corsa, si giocava, certo, mi sembra improvvisamente, no, allora, facciamo un attimo un esempio, prima l'assessore parlava della presenza in tutti i quartieri di slot machine, sicuramente è vero, ma allora cominciamo a parlare della presenza della prostituzione. Vogliamo dire quanti tabaccai che vendono cancro ai polmoni ci sono in tutti i quartieri? Cioè, improvvisamente questo è un paese che scopre la battaglia del momento, fra un po' sarà la volta delle sigarette elettroniche. Per lei va tutto bene, prostituzione, sigarette, droga, questo, alcol, cioè lei ammetterebbe tutto. Assolutamente no, però ma perché tale, prendercela con le slot house se ci sono altre questioni? Questo è il punto. Nessuno pensa di affrontare il tema delle case chiuse e dell'abolizione della Merlin, perché c'è un'ipocrisia. Ma ogni tanto qualcuno lo dice. Ogni tanto qualcuno dice, è che ognuno poi si appassiona a una battaglia diversa, i radicali sulla prostituzione, quegli altri. Però insomma, è inutile far finta di nulla che su questa questione delle slot house c'è stato un aumento vertiginoso in questi anni e che qualche problemino ce lo sta causando. Se poi lei dice, ma ci sono altri problemi, faccia come crede. Grazie Andrea da Roma. Adesso però, tra poco, preparate l'SMS perché si va alla premiazione della categoria Imprese del concorso che si può fare. Allora, the best nella categoria imprese di questo concorso che abbiamo fatto in questi mesi è la storia di Edilana, Daniela Ducato, che con le sue imprese nel settore della bioedilizia, nate dalle eccedenze della produzione pastorizia e quant'altro in Sardegna, la sentiremo tra poco, e questo è, va a suo onore. Allora, segnale convenzionale, vai! Via con gli sms, via con gli sms, con la mail con cui vi siete registrati sul sito, voi che avete votato, avete partecipato al concorso, perché è solo così che potete partecipare all'estrazione. Vedo che arrivano, io ero preoccupato perché il meccanismo era un po' complesso. Allora, adesso noi abbiamo le prime, i primi sms, quindi poi verificheremo sul sito che voi abbiate veramente votato e poi vi scriviamo e vi diciamo bravo tizio, hai vinto il concorso. Adesso però salutiamo Daniela Ducato, buongiorno. Buongiorno a voi. Fondatrice di una rete di imprese, una storia incredibile, l'avevamo raccontata qualche mese fa, l'aveva rilanciata Ermete Realacci nel suo libro, non è sfuggita a molta stampa, noi compresi, una storia incredibile. Tra l'altro Daniela oggi vince un altro premio, proprio oggi. Oggi sono qui in questa bellissima città di Parma, dove si assegna ogni anno il premio Mimosa d'Oro, è un premio internazionale che va ad una donna che abbia portato eccellenza ambientale nella sua vita, nel suo lavoro. Abbiamo sentito male il nome del premio perché ci è andata un attimo la linea. Come si chiama il premio? Il premio è un premio internazionale, si chiama Mimosa d'Oro. Sì. È delle donne, istituito dalle donne ambientaliste, e sono qui a Parma, che appunto stasera nel pomeriggio ci sarà la premiazione, e ogni anno questo premio viene dato ad una donna che si sia particolarmente distinta, abbia fatto innovazione nel settore ambiente. Leggo in su un sito molto più autorevole di noi, Ecoblog, specializzato in questioni ambientaliste, un po' la sintesi. Daniela Ducato è un'imprenditrice che dirige la Casa Verde CO2.0, ovvero un polo edilizio di 72 aziende, avete capito bene, di cui 40 in Sardegna, dedito alla produzione di prodotti per la bioedilizia in cui si usano tutti gli scarti e eccedenze boschive, geominerali, pastorali prodotti in Sardegna. Io so che non vuole usare la parola Sardegna, esatto. Sardegna. Anche fuori alla Sardegna, infatti oggi proprio qui in onore a sì. questa regione, a Parma, presento anche i colori fatti con le eccedenze del parmigiano, quindi con le pure con le eccedenze del parmigiano, certamente, e anche con gli scaduti. Cosa fate con le eccedenze del parmigiano? Facciamo delle pitture che presentiamo oggi in anteprima con anche gli scaduti dell'aceto balsamico, e quindi è una pittura molto molto bella, molto intrigante, e perché la nostra idea è quella di fare scambio con le imprese italiane, quindi le imprese italiane che in questo modo possono scambiarsi le eccedenze. Quello che dice, il rifiuto di uno diventa risorsa dell'altro, un po' come avviene in natura tra le formiche, le farfalle, i rospi, insomma non ci sono... Cioè capite, ascoltatori, la cosa incredibile, che dagli scarti di tutto, perché voi siete partiti dagli scarti della lana, ma poi avete usato gli scarti del... di tutto, che ha detto bene, noi chiamiamo eccedenze. Sì, adesso mi sono lasciato prendere, perché io me lo ricordavo che lei aveva detto no, la parola scarti no, eccedenze, perché in effetti scarti è una parola negativa, eccedenze è una parola neutra, e voi la rendete addirittura positiva, perché avete messo su un network. Quante persone lavorano alla fine in tutte queste imprese, Daniela? Non ho capito. Quante persone lavorano alla fine in tutta questa rete di imprese? Insieme saremo circa 500 persone. Insomma, è una cosa nata... Quando è nata il primo germe di tutto questo? Che anno allora, era? Allora, il primo seme è nato con Edilana, che è l'azienda, diciamo, sì, la madre. E poi via via tante altre imprese, 40 in Sardegna, e poi varie filiere che toccano anche l'agricoltura, la pastorizia, e anche innovazioni che fa rima anche con contaminazione. Ad esempio una news è un formaggio che ha un'intonacatura proprio fatta di terra cruda, quindi anziché intonacare il muro viene intonacato questo formaggio, ma stiamo parlando di eccellenza, quindi di terra cruda, di olio d'oliva, di latte, e tutto questo servirà poi a quel formaggio per poter viaggiare senza altri packaging o altri congegni termici che sprecano quindi energie CO2, semplicemente avvolto da terra, un guscio di terra avvolto in un telo di lana termica. Quindi non solo bellezza, ma anche racconto, ingredienti che raccontano terre, che raccontano storie, che risparmiano ambiente, CO2, sì. e che viaggiano leggeri anche senza camion termici. Quindi dobbiamo fermarci un attimo, Daniela, perché c'è il traffico. Poi le voglio chiedere, anticipo subito la domanda, questo: cosa c'è che voi avete che invece l'Italia, il paese, non ha? Cioè voi che avete creduto in un'idea straordinaria, strana, con coraggio avete realizzato questo network di imprese tecnologiche di successo anche all'estero, invece noi ci giriamo dall'altra parte e vediamo che l'Italia è ferma. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora Daniela Ducato, che è qui come fondatrice di questo network di imprese, la prima è di là, abbiamo spiegato tutto, anche il concorso eccetera, la domanda è questa: cos'è il vostro segreto, qual è? Pronto? Daniela, non ha sentito niente nel frattempo. No, perché purtroppo col cellulare... Le chiedevamo, in chiusura di questo collegamento nel quale ci siamo un po' celebrati, il concorso, sì, lei, il premio, eccetera, qual è il segreto della vostra iniziativa? Perché noi ci giriamo dall'altra parte e vediamo che invece l'Italia sembra ferma. Voi invece correte a mille. Qual è il vostro trucco? No, allora, noi non corriamo, siamo molto slow, andiamo lenti. Non ci sono segreti. La nostra forza è la sinergia, lo scambio di competenze, la nostra forza in realtà è la nostra grande fragilità, e quando si sa di essere molto fragili si ha bisogno degli altri e si cerca negli altri quella competenza, quel valore che noi non abbiamo, quindi più ci sentiamo incompleti, più abbiamo necessità degli altri, più troviamo il modo di squadra, di far rete. Quindi in realtà noi sappiamo di avere molte incapacità, molte competenze, e unendoci insieme un po' cerchiamo di supplirle. Quindi questo gioco di squadra ci aiuta. Poi la motivazione, che noi è nato tutto in Sardegna, io credo anche perché noi non abbiamo la continuità territoriale delle merci, siamo un po' un altro continente. Noi abbiamo una grande voglia di sentirci, chiaramente siamo sardi dignitosi, ma anche voglia di sentirci italiani, e allora questo scambio ci ha consentito di sentirci più italiani e di portare queste innovazioni anche a creare delle relazioni tra le persone, perché credo che non ci può essere una vera innovazione senza quella relazione di umanità e di socialità. Io credo che manchi l'ascolto del territorio, se vogliamo andare a dire una cosa, diciamo, di criticità che noi notiamo non solo in Sardegna ma nel resto dell'Italia. E una cosa la vorrei dire: sì, ci sono moltissime cose che si possono fare a costo zero. E questo è un bel messaggio. Grazie Daniela Ducato, ci risentiremo sicuramente, perché di cose da raccontare ne ha. Grazie e bocca al lupo. Agli ascoltatori che erano in linea, anche richiamati per intervenire, dobbiamo dire ci sentiamo la settimana prossima, oppure usate la segreteria telefonica 828 12 12, perché adesso dobbiamo andare in chiusura a Torino per un'altra notizia. Vabbè, insomma, questa è la versione live di una canzone che gli amanti avranno riconosciuto. Linea 77, buongiorno a Paolo. Eccoci qua. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo scelto questa canzone qua perché è stata eseguita una volta anche insieme ai Subsonica. Voi e i Subsonica, insieme anche ad altre persone, siete gli autori di un appello per rilanciare i Murazzi di Torino con un significato. Qual è? 13.000 voti, tra l'altro, su Mi piace sulla pagina Facebook, eh? Sì, ma guarda, sostanzialmente il nostro intento è quello in qualche modo di tutelare quegli spazi, nel senso che ci sono state delle polemiche, il Comune adesso sta per emettere un bando in cui verranno appunto destinati quei locali, verranno dati a chi presenterà delle domande. Il tema sul quale siamo particolarmente sensibili noi e i Subsonica è quello cui vengano diciamo in qualche modo inseriti e valutati come criteri, diciamo, decisivi non soltanto quelli economici ma anche quelli dell'offerta culturale, per cui perché che è una cosa che a me è piaciuta, perché è un po' anti, cioè i nemici insomma della movida, quelli che dicono sono tutti drogati, tutti alcolizzati, invece voi dite no, no, a noi non ci interessa una fila di sciupiterie dove si beve e basta o si mangia, ci interessa anche fare dei progetti, quindi rivolgiamo un invito a chi ha dei progetti culturali ad aderire a questo bando. Esattamente, per fare in modo che non sia la, diciamo, la capacità economica l'unica variabile che possa condizionare le sorti di questa di questo bando, perché sennò, voglio dire, i soggetti che in qualche modo adesso hanno la liquidità per fare questo tipo di interventi sono soggetti che, ne so, mi vengono in mente i compro oro o mille altre attività che per ragioni di natura loro e del loro business in qualche modo hanno delle disponibilità, però i Moratti sono un'altra roba. Ecco, cioè, Paolo, in chiusura, perché dobbiamo purtroppo chiudere, in 30 secondi, cosa sono i Murazzi per voi di Torino? Cosa rappresentano? Beh, diciamo il punto di partenza di, appunto, di gruppi come noi e Subsonica, perché negli anni 90 erano un incredibile luogo di aggregazione nato spontaneamente, che il destino ha voluto essere anche in uno degli spot più belli della città, in Riva al Fiume. Grazie mille anche a Paolo Paganelli di Linea 77 per questa ultima segnalazione per la puntata di oggi. Ringrazio anche Giorgio De Luca in redazione, in assistenza oggi, Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro La Corte. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Buona giornata e aspettate la comunicazione, il premio del concorso.